D'altra parte, anche in uomini che avevano subito un lieve cambiamento, i cui baffi erano diventati bianchi, eccetera, si sentiva che il cambiamento non era propriamente materiale. Sembrava di vederli attraverso un vapore colorante, un vetro dipinto che cambiava l'aspetto del loro volto, ma soprattutto, per quanto vi aggiungeva di torbido, mostrava che quanto ci consentiva di vedere a grandezza naturale era in realtà lontanissimo da noi, d'una lontananza diversa, è vero, da quella dello spazio, ma dalla cui profondità, come da un'altra riva, si sentiva che stentavano a riconoscerci come noi a riconoscere loro. Solo forse Madame de Faucheville, come iniettata d'un liquido, d'una sorta di paraffina che gonfia la pelle ma le impedisce di modificarsi, aveva l'aspetto d'una cocotte d'altri tempi definitivamente imbalsamata. «Mi prendete per mia madre?» mi aveva detto Gilbert. Era vero. Sarebbe stato d'altronde quasi gentile. Partiamo dall'idea che le persone siano rimaste le stesse e le troviamo vecchie. Ma se l'idea da cui partiamo è che siano ormai vecchie, non le troviamo poi rivedendole tanto male. Per Odette non si trattava solo di questo. Il suo aspetto, a chi conosceva la sua età e si aspettava una vecchia, appariva come una sfida alle leggi della cronologia, più miracolosa di quella della conservazione del radio alle leggi della natura. Se non la riconobbi subito, non fu perché fosse cambiata, ma perché non lo era, essendomi reso conto, nel corso dell'ultima ora, di quanto di nuovo il tempo aggiungeva agli esseri ed era necessario eliminare per ritrovarli quali li avevo conosciuti. Facevo ora rapidamente quel calcolo e, aggiungendo all'Odette d'una volta il numero degli anni passati su di lei, il risultato che ottenni fu una persona che mi parve non poter essere quella che avevo davanti agli occhi, proprio perché era uguale a quella d'allora. Quanta parte avevano il trucco, la tintura? Sembrava, sotto i capelli dorati e tutti lisci, sorta di chignon arruffato da grossa bambola meccanica su un viso anch'esso da bambola, stupefatto e immutabile, cui si sovrapponeva un cappello di paglia, piatto come i capelli, da esposizione del 1878, di cui sarebbe certo stata a suo tempo, e soprattutto se avesse avuto allora l'età di oggi, la più fantastica attrazione. Sembrava che fosse lì per eseguire il suo numero in una rivista di fine anno. Ma l'esposizione del 1878, rappresentata da una donna ancora giovane. Accanto a noi stava passando anche un ministro di prima dell'era boulangista, ora di nuovo in carica, rivolgendo alle signore un sorriso tremolante e lontano, ma come imprigionato nei mille lacci del passato, piccolo fantasma mosso da una mano invisibile, rimpicciolito, mutato nella sostanza e simile a una riduzione in pietra pomice di sé medesimo. Quell'ex presidente del Consiglio, così ben accolto nel Faubourg Saint-Germain, era stato oggetto un tempo di procedimenti penali, esecrato dall'alta società e dal popolo, ma grazie al rinnovarsi degli individui che compongono l'una e l'altro, e negli individui superstiti delle passioni e persino dei ricordi, nessuno più lo sapeva ed era tenuto in gran conto. Non c'è umiliazione, per quanto grande, cui non ci si debba rassegnare, sapendo che nel giro di qualche anno i nostri errori, sepolti, non saranno più che una polvere invisibile, sulla quale sorriderà la pace sorridente e fiorita della natura. L'individuo momentaneamente tarato si troverà, grazie ai giochi d'equilibrio del tempo, in mezzo a due nuovi strati sociali, che avranno per lui soltanto deferenza e ammirazione, e fra i quali potrà comodamente adagiarsi. Ma è affidato questo lavoro al tempo, e nel momento dei guai niente può consolarlo del fatto che la ragazza della latteria di fronte l'abbia sentito chiamare assegnaiolo dalla folla, che gli mostrava i pugni mentre lui saliva sul cellulare. Ragazza che non vede le cose nella prospettiva del tempo e ignora che gli uomini incensati dal giornale del mattino furono in altri tempi screditati e che quello minacciato in questo momento di prigione è incapace, forse, se pensa alla giovane lattaia, di trovare le parole umili adatte a conciliargliene la simpatia. Sarà un giorno esaltato dalla stampa e conteso dalle duchesse. Allo stesso modo il tempo allontana i litigi di famiglia. E dalla principessa di Guermantes si poteva vedere una coppia di marito e moglie i cui rispettivi zii, oggi scomparsi, non solo s'erano schiaffeggiati, ma uno, per umiliare l'altro, gli aveva mandato come propri padrini il portinaio e il maggiordomo, ritenendo che due persone della buona società fossero troppo per lui. Ma queste storie dormivano nei giornali di 30 anni prima e più nessuno le sapeva. E così il salotto della principessa di Guermantes era illuminato, dimentico e fiorito come un tranquillo cimitero. Il tempo, lì, non aveva solo disfatto vecchie creature, aveva reso possibili, aveva creato nuove associazioni. Per tornare al nostro uomo politico, a dispetto del cambiamento, non meno profondo della trasformazione delle idee morali da lui suscitate ora nel pubblico, intervenuto nella sua sostanza fisica, in una parola a dispetto dei tanti anni trascorsi da quando era presidente del Consiglio, faceva ora parte del nuovo governo, il cui capo gli aveva affidato un ministero. Un po' come certi direttori di teatro che danno una parte a qualche ex collega che si è ritirata da tempo, ma che loro, conoscendone d'altronde la difficile situazione economica, giudicano tuttora capace, meglio delle giovani, di sostenerla brillantemente, e che a 80 anni quasi suonati mostra ancora al pubblico la pienezza di un talento quasi intatto, con quella continuità della vita che ci si stupisce poi d'aver potuto constatare pochi giorni prima della morte. Quanto a Madame de Faucheville, invece, il prodigio era tale che non si poteva nemmeno dire che fosse ringiovanita, ma piuttosto che con tutto il suo carminio, il suo rosso, era rifiorita. Ancor più dell'incarnazione dell'Esposizione Universale del 1878, sarebbe stata la curiosità e la principale attrazione di un'odierna mostra di floricoltura. A me, del resto, più che sono l'esposizione del 1878, sembrava che dicesse «Sono il viale delle acace nel 1892». Sembrava che si sarebbe ancora potuto incontrarcela. D'altronde, proprio perché non era cambiata, non sembrava nemmeno viva. Aveva l'aspetto d'una rosa sterilizzata. La salutai, cercò per qualche istante il mio nome sul mio viso, come uno studente cerca su quello dell'esaminatore una risposta che gli sarebbe più facile trovare nella propria testa. Dissi chi ero e subito, come se grazie all'incantesimo di quel nome avessi perduto l'apparenza da corbezzolo o da canguro, probabilmente conferitemi dall'età, mi riconobbe. E si mise a parlarmi con quella voce così particolare che chi l'aveva applaudita in qualche piccolo teatro si stupiva tanto, quando era invitato a colazione fuori con lei, di ritrovare finché ne avesse voglia in ciascuna delle sue parole per tutta la durata della conversazione. Quella voce era rimasta la stessa, inutilmente calda, seducente, con un lievissimo accento inglese. Eppure, così come i suoi occhi sembravano guardarmi da una riva lontana, La sua voce era triste, quasi supplichevole, come quella dei morti nell'Odissea. Odetta avrebbe potuto recitare ancora. Le feci dei complimenti per la sua giovinezza. Mi rispose: «Siete gentile, my dear, grazie». E poiché era difficile che desse a un sentimento, fosse anche il più vero, un'espressione non addugiata dal pensiero di quel che credeva elegante, ripeté più volte: «Grazie molto, grazie molto». Ma io, che avevo fatto un tempo così lunghi percorsi per vederla al Bois, che avevo ascoltato, la prima volta che ero stato da lei, il suono della sua voce cadere dalla sua bocca come un tesoro, adesso, i minuti che passavo accanto a lei mi sembravano, poiché non sapevo cosa dirle, interminabili. E mi allontanai pensando che le parole di Gilbert, «Mi prendete per mia madre?», non soltanto erano vere, ma non avevano per la figlia niente di men che lusinghiero. D'altra parte, non solo in quest'ultima erano affiorati tratti di famiglia che erano rimasti fino ad allora invisibili nel suo viso, come le parti d'un seme, ripiegate all'interno, di cui nessuno può indovinare lo sviluppo che avranno un giorno all'esterno. Così una poderosa aquilinità materna trasformava in questa o quella donna, verso la cinquantina, un naso fino a quel momento dritto e puro. In un'altra, figlia di banchiere, il colorito, d'una freschezza da giardiniera, s'arrossava, si faceva ramato e prendeva quasi il riflesso dell'oro tanto maneggiato dal padre. Certuni avevano finito persino con l'assomigliare al loro quartiere. Portavano sulla propria persona una sorta di riflesso di Rue de l'Arcade, di Avenue du Bois, di Rue de l'Élysée. Ma soprattutto riproducevano i tratti dei loro genitori. Odette, ahimè, non sarebbe rimasta sempre così. Meno di 3 anni dopo l'avrei rivista una serata in casa di Gilbert, non proprio rimbambita, ma un po' svanita, e ormai incapace di nascondere sotto una maschera immobile quello che pensava. No, pensava è dir troppo. Quello che provava. Scrollare la testa, stringere le labbra, scuotere le spalle a ogni impressione cui soggiaceva, come farebbe un ubriaco, un bambino, come fanno certi poeti che non tengono conto di chi gli sta intorno e, ispirati, compongono in società. E mentre accompagnano a tavola, dandole il braccio, una signora sbalordita, aggrottano le sopracciglia e arricciano il naso. Le impressioni di Madame de Faucheville, tranne una, quella appunto che l'aveva indotta ad assistere alla serata, la tenerezza per la figlia adorata, l'orgoglio che desse una serata così brillante, orgoglio non velato nella madre dalla malinconia di non essere più nulla. Queste impressioni non erano liete e dettavano solo una perpetua difesa contro le prepotenze che le venivano fatte, difesa timorosa come quella d'un bambino. Non si sentiva dire altro che «Non so se Madame de Faucheville mi riconosca, forse dovrei farmi presentare di nuovo, ma no, potete farne benissimo a meno». Si gridava in risposta, senza pensare che la madre di Gilbert sentiva tutto, senza pensarci o senza curarsene. «È perfettamente inutile. Per la soddisfazione che ne avrete, la lasciano nel suo angolino, del resto è un po' andata». Furtivamente Madame de Faucheville lanciava, con i suoi occhi rimasti così belli, uno sguardo sugli interlocutori ingiuriosi, poi rapidamente lo richiamava a sé, temendo d'essere stata scortese. E purtuttavia, agitata dall'offesa, tacendo la sua flebile indignazione, si vedeva la sua testa tremolare, il suo petto sollevarsi, gettava un nuovo sguardo su un altro invitato scortese, ma senza stupirsi poi tanto, giacché, sentendosi molto male da qualche giorno, aveva suggerito con mezze parole alla figlia di rimandare la festa, ma la figlia s'era rifiutata di farlo. Madame de Faucheville non le voleva per questo meno bene. Ogni duchessa che entrava, l'ammirazione di tutti per il nuovo palazzo le inondavano il cuore di gioia. E quando entrò la marchesa di Sabran, che era allora la dama a cui conduceva con la massima difficoltà il più elevato gradino sociale, Madame de Forcheville sentì d'essere stata una madre buona e previdente e che la sua missione materna era compiuta. Nuovi invitati beffardi la fecero nuovamente guardare e parlare da sola, se si può definire parlare un linguaggio muto che si traduce soltanto in gesticolazioni. Ancora bellissima, era diventata, cosa che non era mai stata, infinitamente simpatica. Perché adesso, lei che aveva ingannato Swan e tutti quanti, l'universo intero, la ingannava. Ed era diventata talmente debole che non osava neanche più, i ruoli essendosi invertiti, difendersi dagli uomini. E presto non si sarebbe difesa dalla morte. Ma torniamo, dopo questa anticipazione, a 3 anni prima, cioè al ricevimento cui ci troviamo in casa della principessa di Guermantes.